9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questo giovedì, ultimo giorno dell'anno, concludiamo, domani sarà una puntata un po' speciale, ve l'annuncerò tra poco, però concludiamo con una delle vicende che più ha segnato il dibattito, l'innovazione a giudizio di molti, o forse anche le caratteristiche non tutte troppo positive del nostro paese, e cioè ancora una volta una puntata sulla questione Fiat. Dopo il recepimento ieri per Pomigliano dell'intesa di giugno, il recepimento della novità avvenuta a Mirafiori, dove anche lì con gli stessi sindacati, cioè la UIL, la CISD, la FISMIC e l'UGL, l'azienda definisce un nuovo quadro di regole, e ciò che si recepisce anche a Pomigliano, che invece per Pomigliano non era stato così chiarito, diventa invece il punto su cui ci si divide di nuovo rispetto a chi non ha firmato, cioè alla FIOM. Qual è questo punto? È un punto semplice, chiaro, è un punto che dice che chi non tratta le intese aziendali, chi non le codefinisce insieme all'azienda, dopo non presenta più la lista in azienda e non gode più dei diritti sindacali. Per godere dei diritti sindacali bisogna firmare le intese. È un punto che non è toccato dal contratto nazionale, per questo quindi la Fiat va oltre anche le firme di accordi in deroga al contratto nazionale consentite dalle rotture che Confindustria prima di lei aveva avviato 2 anni fa con il nuovo accordo interconfederale sugli assetti contrattuali, condiviso con gli stessi sindacati che sono passo passo hanno condiviso tutte queste novità, ma siccome non è il contratto nazionale a disciplinare la questione della rappresentanza, ma è una intesa interconfederale del 93, il patto del 93, si innova rispetto a quella e la maggioranza dei sindacati insieme alla Fiat si trovano d'accordo nel dire: viviamo un'anomalia, perché da anni i contratti nazionali dei metalmeccanici la FIOM non li firma. Non ha firmato l'ultimo, il penultimo e quello prima ancora, non li firma, e però naturalmente continua nelle aziende a protestare, a scioperare, eccetera, eccetera. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, anche la maggioranza dei sindacati, non solo l'azienda, questa situazione non va più bene, perché dicono non si può avviare questa tendenziale trasformazione di un sindacato così importante come la FIOM, così rilevante nella storia della relazione industriale italiana, come se poi fossimo Cobas, perché chi è Cobas si piglia le sue responsabilità. Questo è ciò che in realtà porta alla svolta in corso, una svolta in corso che poi viene sui giornali di oggi, come sempre avvenuto in questo anno, oramai drammatizzata, con ci sono tifosi da Curva Sud da una parte e dall'altra. Questa cosa a me non piace molto, perché che fa alzare il tono, fa perdere di vista la concretezza della faccenda, la sfida per la produttività da una parte e il fatto che si portano nelle tasche dei lavoratori salari reali detassati che altrimenti non ci sarebbero. Volano parole grosse, e io sono cresciuto in una città, ve lo racconto spesso, in cui a furia di volare parole grosse poi per 10-15 anni è stato molto complicato ed è costato molte vittime riprendere in mano il bandolo della matassa. Io non amo molto questo torneo da Curva Sud tra i sostenitori di questo presunto marchionne americano. Qui non c'è niente di americano, mi dispiace per il Foglio, mi dispiace per Giuliano Ferrari, è come sempre un grande drammatizzatore, si appassiona a una cosa, non c'è niente di americano in questa vicenda. Le caratteristiche delle relazioni industriali italiane, cioè il fatto che il contratto nazionale definiva tutto, la parte normativa e salariale, che era diventato un totem di riferimento, che si faceva riferimento a quello perché noi abbiamo tante piccole imprese, quindi il sindacato è riuscito ad affermare la forza per la quale si faceva contratto nazionale e così solidarietà, oppure si lasciava scoperti una parte dei lavoratori più deboli. Questa è tutta storia italiana, non c'entra niente con l'America. Questa soluzione di Pomigliano e Mirafiori non c'entra niente con la Chrysler. Qui nessuno ha proposto, la Fiat non ha proposto di pagare meno della metà dei lavoratori storici i neoassunti o quelli assunti negli ultimi 2 anni, come invece avviene alla Chrysler. Quindi pretendere di dire che stiamo facendo l'America, quando per una storia italiana e per la storia del sviluppo del sindacato nel nostro paese avevamo una caratteristica molto centralizzata di contrattazione, e invece a questo diamo una risposta italiana dal basso che parte con altri sindacati e aziende italiane che non introducono le differenziazioni salariali come è stato fatto in America, come è stato fatto in Germania. In Germania è passato il principio lavorate di più a parità di salario. Qui non c'è né l'una né l'altra cosa. Quindi la risposta italiana è: definiamo insieme meglio turni, salari, orari, la presunta schiavitù che viene introdotta, perché anche lì si esagera da parte di chi non è d'accordo, è una la diversa distribuzione delle pause e 10 minuti di lavoro in più al giorno che vengono regolarmente retribuiti, quindi non c'è nessun esproprio di futuro. Ma il punto di fondo vi posso abbastanza garantire è che intese di questo tipo si firmano nella siderurgia, come nel tessile e nel chimico, da moltissimi anni nel nostro paese. Questa è la realtà. Non ci sarebbe più nessuna impresa tessile o quasi di medie e grandi dimensioni nel nostro paese, con tutta la crisi che c'è stata, ce ne siamo occupati molte volte, ma la crisi veniva da prima, se non si fosse trovata in quella categoria, senza che scendesse nessun santo dal cielo e nessuna Madonna dall'alto, una capacità da parte delle imprese e dei sindacati, quelle della categoria CGL compresa, di definire insieme intese in cui azienda per azienda, stabilimento per stabilimento ci si adatta alla mutata domanda di quel prodotto, di quel processo produttivo, eccetera eccetera. Qui c'è una questione che riguarda i metalmeccanici da sempre, perché è la categoria tra virgolette più politica di tutte, anche se non è più politica come era 20 anni fa e 30 anni fa, perché i metalmeccanici sono di molto ridotti. Il totale dei dipendenti Fiat Auto 22.000, ripeto, in queste sole due settimane alla Regione Sicilia ne hanno assunti 27.000 in una botta e 4.000 ieri in un'altra, quindi 31.000, una volta e mezzo. Stiamo parlando di questo, ma però è una questione politica di grande rilievo. La FIOM non vota sulle intese. La FIOM dice ogni volta no, no, no, qui c'è un processo. La FIOM perde rispetto al totale degli altri sindacati che decidono di aspettarla più. Questa è la storia di questi ultimi anni. Però il punto delicato è quello della rappresentanza, tant'è che io vi ho detto all'inizio della trasmissione: chiamateci e dite come la pensate su questa svolta, per la quale siete d'accordo che chi non definisce le intese nella vostra azienda, se la dovessimo applicare a dove lavorate voi in ascolto, poi perde i diritti e non presenta le liste, oppure vi sembra una cosa che basterebbe se foste dipendenti della Fiat a Mirafiori a votare contro e a dire che ha ragione la FIOM? Perché è una questione di fondo. Io dico che non mi sembra il bando della democrazia, come invece hanno detto ieri al Comitato Centrale della FIOM, non mi sembra il bando della democrazia, perché invece c'è una questione appunto che deve riflettere sulle conseguenze di lungo periodo dell'isolamento della FIOM. Però dall'altra la FIOM, persone che sono serissime, che sono convinte che questa caratteristica nazionale della contrattazione va difesa, loro sono convinti che invece qui c'è una svolta autoritaria e pseudonazista. La novità è che il PD è completamente diviso. Io non voglio infierire su questo, però la dichiarazione di D'Alema ieri alle 19, che si è augurato, come aveva fatto Fassino, se fosse un dipendente di Mirafiori, lui dice: io farei votare per il sì, da un quadro del PD che a propria volta ci deve far riflettere, perché noi abbiamo D'Alema, Fassino, Chiamparino, Ichino, Enrico Letta, Franco Marini, Veltroni, insomma espressioni di anime diverse che non è che la pensano allo stesso modo al PD, che però sono favorevoli al sì nel voto che si dovrà tenere a Mirafiori. Bersani, Damiano, Fassina, responsabile economico, molto più... non hanno ancora pronunciato un sì netto, neanche un no netto. Vorrebbero che Confindustria, Confedermeccanica, salvasse un quadro nazionale di deroghe contrattate con il sindacato, invece di lasciare via libera totale alle intese e alle NUCO che nascono fuori dal quadro delle deroghe, alle quali comunque la FIOM aveva detto no, quindi anche questa soluzione non basterebbe. Comunque la parte di leadership che vi ho detto del PD la pensa così. Poi c'è una parte del PD invece, Cofferati, Nerozzi, Vincenzo Vitta, tanti altri, che sono schierati nettamente con la FIOM. Allora, questa è la ragione per la quale, secondo me, questa questione della rappresentanza è una questione che divide, come vedete. E siccome bisogna stare attenti nella vita italiana a non delegittimarsi a vicenda, a non insultarsi a vicenda, ci siamo detti: con due ospiti oggi commentiamo le vostre telefonate, sentiamo come la pensano i nostri ascoltatori su questa questione del rappresenta solo chi contratta davvero, o altrimenti è giusto tenersi anche le rappresentanze per chi fa il COBAS, per intenderci, cioè dice no per principio. So che quelli della FIOM direbbero che questa è una rappresentazione sbagliata, allora non dicono no per principio, ma dicono no per ragioni elevate. Però sta di fatto che da moltissimi anni dicono sempre

diritti, c'è una compressione, una giustificazione del quadro generale, ma insomma la questione dei diritti resta nella riflessione di questi nostri iniziali ascoltatori. Cominciamo allora con Domenico De Masi. La sua opinione è: questa questione dei diritti è una questione sbagliata perché tocca un punto diverso rispetto a quello delle intese di produttività ed è una forzatura anche per lei, oppure invece è il bilancio di una lunga stagione di rappresentanza usata male, per cui a un certo punto uno dice: chi vuole fare il Cobas diventi Cobas, però poi non pretende che io lo tratto come lei. Come la pensa? Ma io penso che siamo in una tagliola, ma tutti, lei, io, la CISL, la FIOM, siamo in una tagliola. Questa tagliola è data dal fatto che da una parte c'è la globalizzazione e l'immigrazione, sono due fenomeni che tagliano naturalmente le gambe ai sindacati. Dall'altra c'è il fatto che comunque globalizzazione e immigrazione fanno sì che qualunque lavoro parcellizzato si faccia in Italia da parte di italiani è comunque in una situazione di inferiorità. Cioè altri paesi, quelli a bassissimo salario, sono comunque competitivi. C'è poco da fare. Pomigliano non sarà mai competitiva, anche se si lavorasse 24 ore al giorno con fasi di 5 secondi e con nessuna pausa. L'altra cosa poi è che una catena di montaggio non funziona se c'è il 51% d'accordo. Basta un lavoratore in una catena di montaggio che blocca tutto. Questo è il tallone d'Achille della fabbrica fortemente razionalizzata. Quindi il 10%, il 5% dei lavoratori iscritti a un COBAS o a una FIOM che dir si voglia, comunque può bloccare tutto. Questa è una tagliola, perché naturalmente Marchionne sbaglia, la FIOM sbaglia, la situazione complessiva fa sì che sbagliamo tutti e che la soluzione vada cercata su un piano completamente diverso. Ah, questo ci spiazza De Masi, perché dice completamente diverso. Vedremo poi negli interventi successivi che ci spieghi anche un po' come. Per Bonomi invece come le cose come stanno? È una forzatura in termini di diritto o è un bilancio, secondo me, di una stagione di errore? Alla fine la FIOM si trova anche ad alcuni, la minoranza della FIOM, che ieri si è astenuta, non ha votato contro la linea dello sciopero generale, ha detto: iniziamo a firmarla questa intesa di Torino, sia pure con riserva tecnica, perché altrimenti i lavoratori penseranno che gli aumenti salariali si devono agli altri e non noi, perché se avessero dato retta a noi, noi non avremmo portato aumenti salariali nelle tasche di nessuno. Come la pensa Bonon? Ma io sono d'accordo con lei, Giannino, su tre cose. Uno, sdrammatizzare. Due, questo mettere l'accento che è tutta una storia italiana e poi vedremo cosa significa questo. E il terzo punto, ragionare che il caso Fiat, Pomigliano e Mirafiori incide profondamente dentro la rappresentanza. Partendo dalla rappresentanza mi permetterei di fare un'osservazione. Non è solo un problema di rappresentanza sindacale e quindi quanto la FIOM diventi un COBAS e quanto la CISL e la UIL diventano sindacato. Il problema della rappresentanza lo allargherei. Direi che quello che sta avvenendo è un mutamento profondo del sistema delle rappresentanze nel nostro paese. Uno, il fatto che Fiat esca nella sua contrattazione e negoziazione aziendale da Confindustria ci dice che inizia una crisi, virgolette, di Confindustria. Due, la lacerazione profonda tra CISL e UIL da una parte e CGL dall'altra ci dice che siamo in presenza di una mutazione dei rapporti dentro il sindacato. Aggiungerei, e lei Giannino lo sa, che non è solo questa la fibrillazione della rappresentanza. Abbiamo un cambiamento nel capitalismo dei piccoli, vorrei citare Rete Impresa Italia che assomma, ad esempio, mette assieme Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti, cioè tutti quelli che, diciamo così, rappresentano le piccole imprese diffuse che si mettono assieme. Vorrei citare ancora un accordo che inizia ad essere siglato tra le cooperative rosse e le cooperative bianche. cooperative da una parte, Lega delle cooperative dall'altra, che iniziano a dialogare tra loro. Quindi cominciamo a dire che siamo dentro una terminologia ben più profonda e che la Fiat, ovviamente, il caso Fiat si innesta in questo grande cambiamento. Prima osservazione, era ora. Il sistema delle rappresentanze, degli interessi e del lavoro italiano erano in una erano l'unica gabbia rimasta immobile a fronte della crisi della politica. Spesso dico, non c'è più il PC, non c'è più la DC, ma ad esempio esistevano gli artigiani di sinistra e gli artigiani di destra, cosa che faceva sorridere. Bisogna cominciare a capire cosa significa questo. Quindi, se la storia tutta italiana la collocherei dentro un discorso di questo tipo, in primo luogo. Devo dire che io mi trovo moltissimo in questa descrizione di Bonomi, perché anche secondo me è così, e questa è la radio di Confindustria. Credo che non ci sia niente di male ad ammettere che la dialettica che c'è stata tra l'azienda e Federmeccanica vuol dire anche questa roba che ha detto Bonomi. C'è una dialettica che prende atto di una lunga catena storica di rappresentanza che non va più bene così, era ingessata, era fuori dal tempo. Ecco. Questa è tutta la storia italiana. Secondo punto, non è italiana invece, e qui bisogna ragionare, e non è nemmeno americana, sono d'accordo di nuovo con lei su questo, che non è il tentativo, virgolette, egemonico di esportare Detroit a Torino. Il problema è un altro, è che la Fiat non è più quella One Company Town degli anni, di fine anni 70, che dava il là alle relazioni industriali del sistema privato. È un'altra cosa. Se vogliamo ragionare sempre in questi termini, la crisi di quella One Company Town rimanda ai cassa integrati degli anni 70 alla Fiat di Torino, che, se si ha memoria, avevano perso non solo il lavoro, ma avevano perso il senso. Ricordo che tra le prime ricerche che feci allora c'era da chiedersi e drammaticamente da dire che molti di questi cassi integrati si toglievano la vita, avendo perso il senso. E oggi come oggi non è quindi la contrapposizione da una parte riprendere senso, il senso del lavoro cedendo diritti, come pare che sia il discorso che si fa in questo momento. Il vero problema è che la Fiat si ripresenta sul nostro territorio dentro una dinamica che non è più quella classica, capitale da una parte, lavoro dall'altra, in mezzo allo Stato regolatore. Ok, che... allora un secondo di stop, perché abbiamo la pubblicità. Allora ripartiamo dalle risposte degli ascoltatori con un po' di telefonate. Iniziamo con Lorenzo che si chiama da Verona. Prego Lorenzo, come la pensi? Buongiorno, salve. Io darò un parere sicuramente molto meno competente rispetto a quello ai vostri argomenti di discussione, ma sono lavoratore anch'io, sono una persona molto pragmatica e vorrei partire da un concetto. Io quando ho visto l'intervista al signor Maschionne e al signor Fazio, mi è rimasto molto impresso un dato: la Fiat ha aperto un'azienda in Polonia con un quinto dei dipendenti il livello di produzione è pari a quello dell'Italia. Sì. Quindi sicuramente, voglio dire, in Italia c'è qualcosa che non funziona, adesso non so dire se a livello generale in tutte le aziende, nell'industria, ma sicuramente in quello che riguarda il settore auto per la Fiat c'è qualcosa che non funziona. Come io la interrompo per dire che l'assenteismo molto elevato che c'era storicamente a Pomigliano, ma che, anche se l'azienda, su questo non vuole un po' dire, c'è anche a Mirafiori storicamente, che è un assenteismo nella media dalle 3 alle 4 volte superiore alla media delle aziende italiane di Federmeccanica. Questo per dire che esistono poi particolarità nella storia delle aziende rispetto alle altre, esistono particolarità negli stabilimenti rispetto agli altri, perché quando si hanno assenteismi dell'11 o del 13% rispetto a una media di Federmeccanica che sta tra il 3 e il 4, il 4,5%, vuol dire che c'è un problema storico di capacità di saper gestire le relazioni. relazioni con i propri dipendenti e con i propri sindacati. E anche a Mirafiori c'era una cosa di questo genere, tanto vero che io la interrompo solo per dare un'informazione, non tutti possono leggere tutto. Nell'intesa di Mirafiori, non a caso, si stabilisce che da 12 mesi per diminuire l'assenteismo al di sotto del 6%, pensate, si inizia a non pagare il primo giorno di malattia per gli assenteisti finto malati, e al secondo anno, se non si raggiunge questo obiettivo, inizia a saltare il secondo giorno di malattia. Questo per dire di quanto venga reputato complicato scendere sotto un tasso di assenteismo del 6%, che resterebbe a quel punto superiore del 50% a quello che è la media degli stabilimenti e delle aziende di Federmeccanica nel resto del paese oggi. L'ho interrotta solo perché mi sembra che questi dati, questi numeri, servano a far capire anche che poi Fiat ha una storia propria di responsabilità sui suoi stabilimenti. Comunque, prego Lorenzo, riprenda da dove l'ho interrotto. Sicuramente poi quello che hai detto è tra l'altro giustissimo, e in questi giorni sento parlare soltanto del problema delle relazioni sindacali come se quello fosse il fulcro poi di tutta la questione. Ora, io capisco che sia importante avere delle relazioni sindacali e delle buone relazioni sindacali, però come ha detto lei ci sono altre questioni in mezzo a tutto l'accordo che sono altrettanto importanti. Io sono una persona pragmatica, come ho detto prima, sono un dirigente d'azienda, sono abituato ad avere relazioni sindacali buone, nel senso che sono abituato a parlare con le persone e a trovare un accordo. Anche nelle aziende in cui ho lavorato io abbiamo forzato quelli che sono parametri standard di gestione del contratto, semplicemente per andare avanti. Qua in Italia bisogna andare avanti, la Fiat deve aumentare le immatricolazioni. Io ho comprato la macchina 2 mesi fa, volevo comprare italiano, non ho comprato italiano, c'erano 7.000 euro di differenza sul preventivo tra la macchina che ho comprato e la Fiat, e quindi qualcosa da risolvere c'è. Marchionne credo che abbia portato avanti una forzatura, sicuramente anche a quelli che sono diritti. Ma lei voterebbe sì o no a Mirafiori? Voterebbe sì o no? Io voterei sì. C'è da cambiare, c'è tanto da cambiare, quindi io personalmente ritengo che quello che Marchionne ha fatto sia giusto. Partendo anche da un presupposto, guardi, quando si vota, se io non vado a votare, accetto quello che votano gli altri italiani. Lo stesso concetto viene riportato anche in azienda. Non vieni a firmare le intese, accetti quello che gli altri di fatto. Grazie Lorenzo, sentiamo Leonardo che ci chiama da Bergamo. Leonardo, eccoci. Io volevo, sono un insegnante statale, volevo ricordare che più di 10 anni fa, quando sono state introdotte le RSU anche nel pubblico impiego, la CGIL in testa, i sindacati confederali, per tagliare fuori dalla contrattazione il sindacato autonomo degli insegnanti GILDA, ha voluto e sottoscritto la nota. Giusto, per cui vero, no, il paragone che sta facendo è giusto. La CGIL è saltata la linea? È saltata la linea, mi sa. È peccato, perché proviamo un secondo a richiamarlo se ci riusciamo, perché questo precedente che io non avevo in testa è un precedente nel quale in effetti la CGIL scuola fu d'accordo. E quindi se lo si è fatto per la scuola, perché non anche per Mirafiori? Sentiamo Antonio da Milano nel frattempo. Antonio, prego. Buongiorno. Senta, io la condivido appieno quello che ha detto un vostro interlocutore di prima. Lì in sede, dicendo che non è questo il modo di intervenire. Per me, né da parte di Marchionne, gli operai devono prendere per oro colato quello che arriva. Però io cambierei il modo di fare concertazione. Intanto, primo, eliminerei il sostituto d'imposta. Secondo, farei entrare gli operai negli utili aziendali, motivandoli a lavorare di più e a produrre di più. Quindi il modello, insomma, più vicino alla cogestione alla tedesca, quello di cui spesso scrive Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera. Ma se fosse a Mirafiori, lei voterebbe sì o no, Antonio? No. Voterebbe no. Così com'è no. Perfetto. Finalmente ne troviamo uno che ci indica anche un perché e un altro modello, quindi questa mi sembra una maniera molto apprezzabile. Questo precedente di Leonardo che ci stava chiamando ed è caduta la linea sul fatto che nel settore pubblico sindacati, compresa la CGIL, però sono stati favorevoli ad adottare clausole di rappresentanza per le quali Gilda poi è rimasta fuori, e questa faccenda ha una sua importanza, però, per capire meglio anche dal dal punto di vista di chi dice no, come l'ascoltatore che ha appena chiamato, questa questione della rappresentanza, se è una questione così adamantina come sembra nell'impostazione della FIOM, o se è una questione che si presta a interpretazioni difformi a seconda delle convenienze nelle diverse categorie e con diverse controparti, come ci ha ricordato l'interlocutore. Sentiamo ancora Giovanni da Bari. Giovanni, lei voterebbe sì o no a Mirafiori? Buongiorno, intanto non le saprei rispondere a questa domanda, perché proprio non riuscirei a calarmi nella situazione. Volevo intervenire perché ci tenevo a sottolineare quanto sia importante l'aspetto della responsabilità. Tantissimi complimenti a Marchionne, che finalmente ha il coraggio, responsabilmente, di cambiare le cose in un paese che è bloccato e ingessato per via della politica. Quindi voglio dire, altrettanto dovrebbero fare i sindacati, dovrebbero prendersi un ruolo di grandissima responsabilità nel cambiare assolutamente atteggiamento e mettersi completamente a disposizione di un sistema che è cambiato. Quindi responsabilità, assolutamente responsabilità. Va bene, però la questione è poi, di fronte ai toni e alle polemiche, anche il dovere di prendere delle posizioni ispirate magari a responsabilità. Però torniamo con Domenico De Masi, che ci ha lasciato con col fiato un po' sospeso, perché ha detto: qui stiamo tutti commettendo degli errori e bisognerebbe trovare una ben altra soluzione. E cioè, Domenico De Masi? Dunque, la soluzione la possiamo trovare solo analizzando bene l'errore. A mio avviso non c'è dubbio che noi nei prossimi 20 anni dovremo affrontare un progressivo declino economico, che non significa declino del benessere e non significa declino della felicità, diciamo così. Socrate è stato uno dei personaggi più poveri al mondo e ciononostante più felice, quindi bisogna cercare altrove le fonti del nostro benessere e non solo nel progresso economico. Allora, per pianificare il declino occorre che qualcuno cominci, ovviamente. È giusto che cominci la Fiat e Marchionne? Io credo di no, perché questo darà un'impronta sbagliata a tutto il declino. In che senso? Noi siamo in una società ormai post-industriale, in cui la maggioranza del nostro, la parte maggiore del nostro prodotto interno lordo non deriva più dalla produzione di beni materiali, ma deriva dalla produzione di beni immateriali. La Fiat non solo è un prototipo di azienda che produce beni materiali, ma Marchionne sta gestendo tutto questo con una mentalità industriale e non post-industriale, perché l'organizzazione industriale era basata sul controllo, l'organizzazione post-industriale è basata sulla motivazione. E qui si sta in presenza di una gigantesca operazione di demotivazione complessiva e di restaurazione del controllo. Pure i sindacati stanno facendo l'errore analogo. Non è vero che Detroit è lontana, non è vero che non si guarda la Chrysler. Se noi leggessimo Conquiste del lavoro, che è il quotidiano della CISL, è tutto un grande peana a favore di Bob King. È stato riportato il suo discorso ufficiale con un'introduzione di Bonanni che ne tesse le lodi e che dice che in Italia bisogna fare altrettanto. Quindi, doppio errore: ci stiamo ispirando a un'azienda italiana industriale che si rifà a un'altra azienda americana industriale per risolvere problemi post-industriali. Quando si dice c'è qualcosa che non funziona in Italia, che cos'è? È che noi abbiamo dato più importanza alla qualità del lavoro, cioè alla civiltà del lavoro. Per esempio, la civiltà del lavoro include l'igiene, include la sanità, include la salute, e la salute include per esempio una pausa pranzo. Anche nell'Ottocento e nel Novecento mai Taylor o Ford avrebbero eliminato la pausa pranzo, per un fatto fisiologico, che gli esseri umani tendono a mangiare ogni 4-5 ore. Tutto qui. Non siamo né animali che hanno il letargo, né che hanno come i cammelli la ruminazione, c'è poco da fare. L'assenteismo, ma l'assenteismo dipende sicuramente dall'incoscienza di alcuni lavoratori, sicuramente dall'incapacità di leadership e sicuramente da una cultura del lavoro che non mette il lavoro al primo posto. Tutti questi elementi vanno tutti incamerati in una revisione di lavoro che da industriale diventi post-industriale. Questo, ecco, significa che la tagliola, sì, di cui ho parlato prima fa sì che oggi non si può non accettare purtroppo questo diktat, ma questa è una faccenda a brevissimo termine. Voterei forse anche io a favore, voterei forse anche io sì, però sapendo che intanto va cambiata completamente l'organizzazione del lavoro, che non può andare avanti così. C'è un parallelismo fortissimo tra l'attuale crisi del lavoro e quella che c'era alla fine dell'Ottocento, quando finalmente poi Taylor dette una soluzione straordinaria all'organizzazione del lavoro. Io su questo però devo fare una controobiezione, per così dire. Sì. Cioè, lei dice la touche, il declino, il post-industriale, eccetera. Però alla fine l'Italia, la crescita, il 70, più del 70% della sua crescita breve, continua a farlo perché ha un manifatturiero rispetto ai servizi più elevato degli altri paesi avanzati. No. E no, come no? È così. Mi scusi. Delle volte noi chiamiamo manifatturiero anche quella parte di manifatturiero che manifatturiero non è. Faccio l'esempio eclatante della Ferrari. Sì. La Ferrari non è manifatturiero, diciamo. La Ferrari noi la compriamo per tutta una serie di elementi post-industriali. Sì, ho capito, però noi, voglio dire, noi grazie all'export manifatturiero, quindi al fatto che c'è piccola, tantissimi piccoli organizzati in filiere, alla cui testa non è detto che ci sia un medio o un grande italiano, ma spesso ci sono aziende tedesche e così via. Noi grazie a quello continuiamo a fare il 70% della crescita breve, tant'è che ne facciamo poca di crescita, l'1%, perché abbiamo il 70% del PIL, cioè servizi e pubblica amministrazione, che comunque non esposti alla concorrenza o peggio organizzati sono ancora meno produttivi. Allora la questione è: sicuramente la tendenza di lungo periodo è quella che indica lei, sicuramente in altri paesi l'hanno saputa imboccare meglio di noi perché hanno fatto servizi più produttivi di noi, questo è il punto, e quindi hanno un valore aggiunto, una capacità di innovazione tecnologica organizzativa che noi nei nostri servizi, e lasciamo perdere la PA, non abbiamo. Detto questo, però, nel breve, siccome esistono paesi leader che a costi più elevati, ma mantenendo la leadership dell'innovazione e quindi della tecnologia incorporata, i tedeschi fanno così, le loro macchine sono leader nel mondo, quelli investono fior di quattrini per unità prodotta e quindi hanno fior di tecnologie messe nel Audi, BMW, e noi molto meno. Ma nel breve, tentando di difendere almeno la capacità della piattaforma automobilistica italiana, che forse nel segmento anche medio e basso, quello tradizionale Fiat rispetto a consumi che esploderanno in India, Cina, eccetera, potrebbe aver qualcosa da dire. È poi così sbagliato pensare che non è solo una battaglia di retroguarda? Ecco, questa è l'obiezione che io ho a De Masi, poi quando ci torniamo in conclusione una rispostina, perché io capisco perfettamente il suo punto di vista storico, la sua deriva di lungo periodo, ma il problema è Iketlung adesso. Sentiamo rapidamente le informazioni sulla circolazione stradale. Anna Maria che chiama da Roma, come voterebbe se partecipasse al voto di Mirafiori, Anna Maria? Io devo dire una cosa, per onestà intellettuale, non ho letto bene la proposta di Marchionne, per cui per dare un giudizio di sì o no bisogna leggere bene la proposta. Ma una cosa però voglio dire, che innanzitutto trovo sbagliato, cioè il nostro paese è un paese che non ha equilibrio, o si fa troppo da una parte o si fa troppo dall'altra. Io dico che le regole ci devono essere, non si può tornare indietro dai diritti conquistati dai lavoratori, però non si deve neanche approfittare a volte di questi diritti, bisogna essere corretti sempre. E una cosa che voglio dire, noi abbiamo fatto battaglie sindacali, io sono ex sindacalista della CGIL, per accorciare questa benedetta forbice, e ci siamo riusciti con tutte le battaglie degli anni 60-70, oggi noi ci troviamo a un'inversione completa e totale di questa forbice maledetta che si è allargata a 360 gradi. La domanda che io voglio fare a questi che governano, che comandano, che decidono, perché a pagare deve essere sempre i soliti noti? Perché è un momento di crisi, benissimo, ma allora a tutti bisogna stringere la cinghia. Perché togliere per esempio il pagamento dell'ICI ai ceto medio-bassi è un aiuto che tu dai a quelli, ma togliere l'ICI ai ricchi non era necessario. Chiaro, Anna Maria dice che bisogna avere più attenzione distributiva e più misura però da una parte e dall'altra, perché altrimenti poi levare i diritti non è mai una buona cosa. Sentiamo ancora Enrico da Pistoia, come la pensa Enrico? Potrebbe sì o no? Buongiorno a tutti, grazie per avermi dato l'opportunità di partecipare. Salve. Ascolti, io purtroppo non ho seguito correntemente fare per la votazione. Però volevo partecipare in merito alla questione principale di Fiat, che era la produttività. Sì. Io mi occupo di riorganizzazione dei processi aziendali utilizzando metodologie Lean Six Sigma. Ho fatto ultimamente un incontro alla Jaguar, una visita agli impianti produttivi della Jaguar a Birmingham, dove utilizzano comunque metodologie Lean, e lì si lavora con grande motivazione e l'azienda funziona come un orologio. Ora, sono al corrente che la Fiat utilizza delle metodologie di world class manufacturing, dove è passata anche da un segmento Lean. Non capisco perché la Fiat non reintroduce questa metodologia, che comunque è molto importante sia per il miglioramento della produttività che la motivazione dei... Guardi, la risposta, Enrico, gliela do io fuori dai denti, perché questa è la classica domanda a cui l'azienda stenta a rispondere, anche i comunicatori ufficiali dell'azienda stentano a rispondere. Mentre la metodologia World Class Manufacturing, stiamo parlando di strategie di ottimizzazione della produzione, tese a zero difetti, elevato coinvolgimento delle maestranze nella migliore esecuzione del prodotto e anche ai miglioramenti del prodotto e dei processi produttivi. In tre stabilimenti su cinque Fiat hanno fatto straordinari passi avanti, a Melfi in particolare, eccetera eccetera. In due hanno fatto passi avanti molto meno rilevanti, perché c'erano problemi storici in quegli stabilimenti che, ripeto, io do un giudizio, mi permetto di dare un giudizio controcorrente, non parlano solo dei difetti storici del contesto di Pomigliano e del Napoletano, o dei difetti o del contesto storico di Mirafiori e delle relazioni industriali, ma che descrivono anche, come è evidente, una responsabilità dell'azienda nel non saperli affrontare. Questa è la mia opinione, e lo dico sapendo di dire una cosa che sicuramente non piace alla Fiat, non piace a nessuno. Questo è il motivo per cui lì, per adottare, darsi una prospettiva seria di adozione del World Class Manufacturing, bisogna cambiare le regole, e su questo bisogna cambiare le regole, anche la penso io. L'hanno pensata insieme sia l'azienda che la maggioranza degli altri sindacati, evidentemente pensando in quei casi di quegli stabilimenti che la strategia della, tra virgolette, protesta continua e del non firmare da parte della FIOM fosse diventato, mi permetto di dirlo, un elemento della irregolarità delle regole di contesto. Questo è il motivo per cui quei sindacati, CISL, UIL, FISMI, CUGL, dicono basta con questa storia, chi non sta tutto al tavolo e non firma non è rappresentato. Bonomi, facciamo un ulteriore passo indietro alle condizioni di contesto. Che cosa può derivarne alla parte manifatturiera e produttiva del paese da questo dibattito, se riusciamo a mantenerlo nel giusto tono e senza esagerare? Beh, a questo punto credo che debba dire la mia rispetto al sì o al no, e quindi qui farò un ragionamento. Io non sono né per il sì né per il no, siccome sono profondamente convinto che siamo di fronte a un grosso mutamento delle relazioni industriali, che deriva dal fatto che i conflitti si sviluppano partendo da flussi che atterrano nei luoghi e li cambiano, e non è una pura denominazione sociologica, parto dalle dichiarazioni di Marchionne in Brasile, quando dice la scelta della Fiat di continuare a investire qui è una naturale conseguenza di un processo di crescita e di maturazione che la nostra azienda ha vissuto insieme al paese. Io credo che quando si atterra in un paese, quel insieme conta, e quindi direi che, siccome le caratteristiche di questo paese, la storia delle relazioni industriali di questo paese, la storia della rappresentanza di questo paese, e questo la Fiat lo sa benissimo, sono storie complesse, io credo che una strategia di negoziazione continuata, senza esacerbare e senza drammatizzare i toni e il conflitto, a mio parere sarebbe stata auspicabile. E io credo che sia ancora auspicabile. Auspicabile sul breve, senza andare sulle lunghe derive di De Masi, che condivido, perché sul breve questo significa in primo luogo che sarà vero che questo è un paese con tanti problemi, anche dal punto di vista della rappresentanza, ma è comunque un mercato. E questo la FIAT non deve tenere in conto. È un mercato storico, è un mercato importante. E dal punto di vista del mercato vale. Due, è un paese in cui la FIAT ha un patrimonio, oltre che dentro le mura delle sue imprese, Pomigliano, Mirafiori, Melfi, tutti i grandi insediamenti industriali, ha un patrimonio di indotto che non è solo un vantaggio per le piccole e medie imprese che lavorano in subfornitura per la Fiat, ma anche un vantaggio competitivo di saperi e competenze. Per tornare al modello della Ferrari che diceva prima De Masi, certamente la Ferrari ha un quid in più di economia dell'esperienza, di immateriale, di immagine, ma anche un quid in più nel senso che viene prodotta a Modena, a Fiorano, ma intorno a un tessuto modenese di imprese che lavorano per la Ferrari. Senza quel meccanismo lì si blocca il sistema. Esatto. Comunque avete sentito che i nostri due interlocutori, e devo dire, vi assicuro, li ho scelti entrambi pensando a questo, sia Bonomi che De Masi, hanno una visione che rifiuta di risolvere la questione con un colpo d'accetta, sì o no, come secondo me i media tendono a fare troppo in tutta questa vicenda sin dall'inizio, perché la storia italiana, la particolarità e anche la forza di questo modello, di questo calabrone che dovrebbe sempre mai volare, mai faccio, poi in realtà grazie a milioni di voi che vi tirate sulle maniche ce la fa comunque, sempre non bene come vorremmo tutti, ma insomma ce la fa, impone una serietà, una misura di toni, un'attribuzione di responsabilità che non deve sfociare nella incapacità di decidere, ma che deve tutti trattenere dalle ole delle curve contrapposte. E quindi io ringrazio in particolare Bonomi De Masi per averci dedicato questo tempo e per aver fatto riflettere voi a casa invece di questi toni caldi da tirassegno che mi sembra dominino su molta della stampa quotidiana. Concludiamo ancora con l'opinione di un ascoltatore, sentiamo Alessandro che ci chiama da Lecco. Alessandro, lei che voterebbe, sì o no? Ma io voterei sì, però non mi è chiara una cosa: se la FIOM volesse fare un'azione di disturbo con gli scioperi, che ci sono, non so, 200 persone in linea di montaggio, che 100 sono della FIOM, che fermano la linea, cosa succede? Succede che secondo ciò che c'è scritto negli accordi sono esponibili a licenziamento, perché a quel punto l'intesa configura ciò che si chiamerebbe giusta causa ai sensi del nostro diritto del lavoro. Questo è il punto, cioè il quadro delle sanzioni a cui ci si espone nella manifestazione di protesta fino al punto in cui per bloccare la linea diventa molto più grave, e diventa molto più grave perché si è deciso di autolimitarsi, come si fa in ogni contratto, nell'espressione delle proprie forme di protesta. E questo è il punto delicato, ed è un punto molto delicato perché poi noi non possiamo dimenticare che la magistratura non sappiamo quanto e se sarebbe d'accordo. E uno dei punti delicati di queste nuove intese contrattuali è che il giorno in cui si andasse a impugnative di massa, cosa direbbe la magistratura? Riconoscerebbe l'autorità contrattuale privata delle parti, come io penso che dovrebbe fare, oppure direbbe no, qua ci sono principi costituzionali, come pensa la FIOM. La FIOM si attesta tutta sulla linea, in mano ai magistrati ve la facciamo vedere, caro Marchionne e cari altri sindacalisti che invece pensate di avere voi nella vostra titolarità i diritti dei lavoratori. I diritti dei lavoratori non sono individuali, dice la FIOM, ma sono collettivi e sindacali, e stanno nella difesa di una sfera superiore che viene prima rispetto a quella delle libertà delle parti e degli individui, che si chiama il diritto pubblico. Sono due visioni del mondo, per così dire. Quindi per questo io non mi va di mettere scomuniche, ma sono due visioni del mondo rispetto alle quali la libertà dei privati e della maggioranza dei privati, la rappresentanza, la mancata adozione dell'articolo 39 e 40 in legge ordinaria della nostra Costituzione, perché la politica non l'ha mai fatto proprio in rispetto del pluralismo e dello scontro sociale dei diversi orientamenti del grande sindacato italiano. C'è tutta questa grande storia irrisolta, che però ribolle nella necessità di dover stare comunque sui mercati, perché io non credo che sia meglio rinunciare alla manifattura italiana e far chiudere davvero la Fiat. La Fiat se ne può andare perché c'è una scommessa, purtroppo, o per fortuna dico io, che è americana e che sta su buoni risultati e buoni utili che si fanno in Polonia e in Brasile. Vogliamo rinunciare a questi 5 stabilimenti, come Marchionne è disponibilissimo a fare? Io dico no, però sono convinto che nell'articolazione che porta Confindustria, come avrete visto, e ha fatto bene De Masi e Bonomi a sottolinearlo, a dire guardate, noi non è che siamo proprio in prima fila, perché in Federmeccanica la maggioranza delle imprese non ce l'ha i problemi che la Fiat hanno a Pomigliano e a Mirafiori, a articolare una posizione diversa, un contratto di Federauto. Penso che tutto questo sia dovuto alla storia e mi auguro che nelle prossime settimane non si arrivi a nessun atto di violenza contro Bonanni, contro Angeletti e nei toni nei confronti della FIOM. Ragioniamo tutti, va, che è meglio, e tiriamoci tutti su le maniche. Grazie a voi ascoltatori che siete intervenuti, a Bonomi, a De Masi, e appuntamento a domani, dove ancora una volta sarete voi protagonisti e chiamate fin da, pensate fin da oggi cosa mi direte domani, solo voi, per dire cosa non mi è cavolo piaciuto in tutto questo 2010 e non vorrò mai più vedere nel 2011, a cominciare da Giannino al microfono. Buttatelo via, chiamate e dite non lo vogliamo più. Arrivederci, a domani, buon fine anno.